Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Qualcuno ha detto che nelle tombe di Falcone e Borsellino, nelle tombe di Don Puglisi e Peppino Impastato, in quella di Giancarlo Siani e Don Peppe Diana, non ci sono più loro. No, loro sono già da un'altra parte. Sono materia pura. Sono identità sacra della specie umana. Ma se non si nasce, si diventa. Ma se non si nasce, si diventa. Molti sapranno sicuramente, ma tutti lo sapranno, perché i media ne hanno dato già ampia visibilità, anche se poi non sono quelle notizie che rimangono appigliate nell'emotività generale, che ci troviamo in prossimità del 23° anniversario della strage di Capaci. Sono 23 anni che quel giorno fatidico vedemmo in televisione qualcosa di drammatico. Un magistrato che conoscevamo tutti, che avevamo in prima linea, che sembrava finalmente rotto quel velo di omertà nei confronti del rapporto fra società civile e illegalità, è saltato in aria improvvisamente in qualcosa di plateale, di gigantesco, di enorme, di spettacolare. Dopo 23 anni mi piace tornare su questo argomento, ne parleranno tutti, la mia non è una trasmissione commemorativa, nemmeno una trasmissione a chi vuole ricordare soltanto quella giornata, no, vorrei portare a riflettere questa mattina gli ascoltatori in una giornata in cui mi piace questa volta essere serio. Normalmente questo spazio si contraddistingue per l'approccio salace con la realtà, per l'approccio ironico, per l'approccio dissacratorio. Questa mattina non mi va di dissacrare, ma di riflettere su due punti fondamentali. In questi giorni si parla molto, ma anzi da molto si parla, attraverso i media più diffusi, attraverso il grande rimbombare che si fa in rete con i social media, sulle notizie, molte volte la demagogia si mischia a quello che è veramente l'impegno civile, ma i temi maggiormente in evidenza sono l'uno, quello della scuola, perché abbiamo visto gli insegnanti in piazza, gli insegnanti protestare, abbiamo visto una legge che è per ora passata in uno dei suoi iter legislativi, molto contestata. Di tutto si parla della scuola, dei presidi che dovranno assumere un ruolo di responsabilità manageriale della scuola, dei precari, dei programmi, ma non si è mai parlato, o poco si parla, o perlomeno non ho visto in questi dibattiti, sul fatto che la scuola sia fondamentale anche come insegnante, maestra di vita. Sembra una frase comune, ma se la scuola non dà degli strumenti reali, concreti, per apprendere la differenza fra la legalità e l'illegalità, a cosa serve la scuola? Il secondo tema è quello della legalità. Si parla molto della legalità, se ne parla anche su qualcosa che prende la pancia delle persone, legato appunto ai vitalizi, ai rimborsi, alla mala politica, tutte cose sacrosante e giuste, ma si è perso un po' di vista quello che è il punto fondamentale. È una sorta di humus limaccioso nel quale noi ci dibattiamo e ci diamo sempre la risposta: e vabbè, siamo in Italia. È possibile che i nostri ragazzi crescano corroborati da questa idea che il vabbè siamo in Italia è una sorta di idea di manica larga nei confronti di tutto quello che si comincia, dalle piccole, banalissime, sciocche illegalità, dalle corsie preferenziali, e si arriva poi ad essere indifferenti verso i fenomeni drammatici e laceranti che attraversano il nostro paese, come quello della malavita organizzata? È difficile, perché dal punto di vista emotivo, passionale, dal punto di vista della rappresentazione gloriosa della realtà, devo dire, non c'è nulla di fatto meglio nel nostro paese quanto le fiction che in qualche maniera raccontano la storia dell'illegalità. Ma volete mettere cos'è la serie di Gomorra? Volete mettere cos'è stato Romanzo Criminale? Ma ancora mi appassiona, me le guardo, mi guardo, sono fatte veramente bene. Non dico assolutamente, non sono dell'idea che vada censurata perché dà un'immagine cattiva del paese, ma qual è la controparte? Cosa noi abbiamo, cosa facciamo per controbilanciare questa sorta di fantomatico, bella, fantastica rappresentazione in cui gli eroi però sono proprio i cattivi, sono quelli che rappresentano la punta più avanzata dell'illegalità? Beh, oggi su questo vorrei darmi qualche risposta. I killer tenevano la stessa età di mio fratello, strafatti di coca. Sono il papà di Alberto, fa incazzare tremendamente. Noi lavoriamo a Radio Siani, sì, Siani, proprio come Giancarlo. Abbiamo la sede a Ercolano. Partiamo dalla sede della radio e attraversiamo tutte le strade di Ercolano. È diventato un corteo di 1500 persone. Paolo Siani. Emanuela Giordano, buongiorno. Buongiorno, sono contenta di stare qui. È una regista, cosa accade domani? Domani accade che approdiamo il viaggio di 10 storie proprio così, lo spettacolo legato al progetto di palcoscenico della legalità approda a Palermo, al Teatro Massimo di Palermo, per un progetto che, come dicevi, ti ho ascoltato con molta attenzione, dà valore al rapporto con la formazione, dal valore alla continuità di relazione tra la scuola e l'arte e il palcoscenico. Allora, 10 storie proprio così, che sarà in scena sabato 23 maggio al Teatro Massimo di Palermo, la regia, drammaturgia è di Emanuela Giordano, ne parleremo più nello specifico, però mi sembra che sia perfettamente in linea con quella che la domanda che mi ero posta. Se noi non diamo una lettura emotiva, anche epica, della legalità, come possiamo controbilanciare quel fantastico, meraviglioso mondo che viene però rappresentato come di eroi anche nel loro essere facenti parte, la parte oscura del mondo. Voi state facendo qualcosa del genere. 10 storie, in realtà sono 10 storie anche di persone che non hanno avuto nemmeno la gloria della copertura mediatica così forte come l'hanno avuto i grandi eroi della legalità. Mi sintetizzi cosa fate? No, naturalmente lo spettacolo è dedicato a Falcone e Borsellino, e lo spettacolo è supportato da tutte quelle associazioni come Polis, l'associazione Falcone, Libera, eccetera, che hanno CO2, che hanno dato sostegno e sostengono poi il concetto che la memoria deve diventare questione di vita, cioè deve entrare nel sistema all'infanzia degli italiani, e soprattutto dai primi anni di vita, perché se non partiamo da questo concetto non riusciremo mai, continueremo a fare spettacoli che parlano di morti e invece vorremmo parlare di spettacoli che parlano di vivi. Detto questo, le storie ci raccontano piccole perché non famose, drammatiche vicende di ingiustizie, di delitti fatti su minori, fatti su giudici, su avvocati, su sindaci, su giornalisti, che hanno segnato il destino di questo paese, ma parla anche di storie di riscatto, di storie di coraggio, di storie di coraggio quotidiano, di gente che non dimentica e di gente che, proprio per la memoria di quei morti e proprio per una dignità riscoperta collettiva, si impegna poi a fare, a creare progetti, a utilizzare terre confiscate alla mafia, a allargare il sistema dell'onestà come principio fondante di una nazione civile. Mi sono affacciata e ho visto mia madre distesa a terra, nel sangue. Ora la Fondazione Silvia Ruotolo esiste. Oggi mia mamma è viva, la sento così. È il nostro modo per urlare la sua vita. Questo spettacolo rappresenta il suo sorriso. Quanto l'abbiamo presa in giro questa parola, legalità, dibattiti, celebrazioni, retorica. Quello che state ascoltando è un'anticipazione di quello che sarà rappresentato al Teatro Massimo di Palermo domani, proprio in occasione della giornata dedicata all'anniversario della strage di Capaci. Ricordo che 10 storie proprio così, che nasce da un'idea di Giulia Minoli e la regia, la drammaturgia di Emanuela Giordano, che abbiamo appena sentito. Però vorrei dare la parola adesso a Paolo Siani. Paolo Siani, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Paolo Siani, inutile che lo ricordi, è il fratello Giancarlo Siani, il giornalista del Mattino, ucciso proprio per il suo impegno professionale nei confronti del diritto di informare rispetto ai rapporti tra malaffare e istituzioni. È stato ucciso appunto il 23 settembre dell'85. La tua parte in questo progetto qual è? La mia parte è la parte che faccio da 30 anni, da quando hanno ucciso Giancarlo, cioè non arrendermi e provare a tenere vivo il suo ricordo. E poi ho incontrato in questi 30 anni tanti altri come me, e siamo cresciuti purtroppo come numero, e in Campania abbiamo fondato un coordinamento dei familiari di vittime innocenti della criminalità, e siamo tanti, le vittime sono più di 300 in Campania. Solo in Campania, sì, sono più di 900 in Italia, che Libera ogni anno ricorda il 21 marzo, e noi marciamo da 20 anni insieme a Libera, e lo facciamo per ricordarle tutte, perché noi crediamo che il loro sacrificio non debba essere vano. E devo dirti che questo spettacolo straordinario, il saluto con affetto Emanuela, la ringrazio molto per aver messo in scena queste nostre storie, perché lo spettacolo nasce dall'incontro con Emanuela Giordano, con l'incontro con noi familiari. Abbiamo trascorso molte ore insieme raccontandoci, e lei dai nostri racconti, dalle nostre parole e anche dalle nostre lacrime, dalle mie lacrime nel racconto di Giancarlo e Emanuela, ha tirato fuori veramente uno straordinario spettacolo. Grazie Paolo Siani, ci fermiamo soltanto un istante. Traffico. Melog. Cronache meridiane. Paura, fanno di tutto per fartela venire. Salvatore Giuliano, il figlio del boss è per strada, chiacchiera con delle ragazzine. Una di queste è Annalisa. Scatta all'agguato, i killer sparano contro di lui risponde al fuoco. Colpisce Annalisa che gli sta accanto. Il posto sbagliato, il momento sbagliato, la morte è più assurda. Non è Annalisa che stava al posto sbagliato al momento sbagliato. 10 storie, proprio così. L'idea di trasporre su un piano di arte, di poesia, quello che deve essere l'ammaestramento sin dai primi anni di vita attraverso la scuola a una coscienza civile. Per Paolo Farina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, per Paolo Farina, insieme a un gruppo di altre persone, sono tanti e non sono soltanto italiani, hanno messo insieme qualcosa che secondo me non ha precedenti, che mi fa molto pensare e di cui se ne ha notizia attraverso alcuni spiragli rispetto ai fantafenomeni che ogni giorno produce la rete, i nuovi cervelli e le nuove tecnologie. Ha ideato Wikimafia. Wikimafia è una sorta di Wikipedia delle mafie, in cui c'è un tentativo collaborativo e partecipativo di creare uno strumento aperto, gratuito, integrabile, possibile, come Wikipedia, che a torto ragione, a gloria d'onta rispetto a quello che pensano, comunque lo strumento più usato in questo momento da tutti quelli che usano la rete. E ancora di più, creare un'applicazione che è la prima applicazione che è finalizzata a geolocalizzare tutti gli episodi di mafia, Mafia Maps. Immaginate quelle mappe, quelle applicazioni che ci sono, in cui si può vedere, non so, gli autovelox in tutta Italia, i bed and breakfast, gli alberghi, le puttane, tutto quello che uno è interessato è geolocalizzato e geolocalizzabile. Nessuno ha mai pensato di creare una mappa in cui sia facile vedere, e questo trovo che sia da un punto di vista didattico formidabile, tutti i luoghi in Italia in cui c'è stato un coinvolgimento provato, certificato e giudicato di fatti di mafia. Ho visto male, ho letto male, Farina, quello che è il vostro progetto? No, il progetto è abbastanza ben riassunto. In realtà non sarà una semplice applicazione di mappe, perché sarà integrata con Wikimafia, e quindi in realtà è come se si evolvesse Wikimafia da enciclopedia base a enciclopedia. Diciamo, c'è un ipertesto consultabile in ogni localizzazione, ecco. Esatto, cioè, perché alla fine sarà come appunto le grandi app di mappe, dove uno vede i vari, appunto, può vedere in questo caso magari il luogo della strage piuttosto che il clan che opera in quel quartiere o in quel territorio, però cliccandoci sopra poi sa anche la storia, quindi questo è perché è integrato con Wikimafia. Ecco, quali sono i vostri interlocutori? Cosa vi serve perché questo diventi una realtà? Mi sembra che ancora a livello di startup, o mi sbaglio? Sì, no, esatto, si diventerà una startup che tra l'altro sarà partecipata dall'Università degli Studi di Milano. L'abbiamo deciso di lanciare questa campagna di crowdfunding. Il crowdfunding è uno strumento che è nato negli Stati Uniti e in Italia non ha ancora così tanta raccolta diffusione. Fondi per un fine esatto. Giustificato io non ho i soldi per fare un'idea, chiedo alla rete di finanziarmi questa idea. Adesso noi siamo arrivati a più di 400 sostenitori e abbiamo raccolto 14.500 euro. Con questa somma noi mappiamo la Lombardia, perché è quella che ci costa meno, perché noi viviamo a Lombardia, sono tutti studenti di sociologia della criminalità organizzata e molti siamo laureati con Nando Dalla Chiesa, quindi abbiamo questo progetto anche di formazione e informazione. Con Wikimafia, quando siamo nati 2 anni e mezzo fa, avevamo questo obiettivo, cioè riorganizzare e semplificare l'accesso alla conoscenza sul fenomeno mafioso. Qualche anno fa abbiamo cominciato a far incontrare gli studenti dei licei, come voi, quelli che stanno fuori, con un gruppo di loro, quelli che stanno dentro. È bello andare nelle scuole, prendere questi ragazzi da quando sono nell'età più viva, più vitale. Troviamo che sia una delle maniere migliori quelle di fare entrare in contatto i ragazzi e le scuole con l'idea di legalità attraverso il teatro, non attraverso una didattica, potrebbe sembrare vessatoria. Su questa idea vorrei ragionare assieme al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. Ministro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Domani sarà una giornata importante, si parla tanto di buona scuola, sembra che è l'argomento più caldo in questi momenti, ma ahimè l'idea che passa è soltanto di una sorta di lotta armata fra appunto chi vuole una buona scuola e chi invece rivendica dei diritti leciti probabilmente, ma non è questo il momento, questo l'argomento che voglio trattare degli insegnanti, via dicendo. Ma quanto sta veramente a cuore in questo momento l'idea che passi un messaggio di legalità nei ragazzi? Perché in tutte le vicende cui ho visto, ho letto, abbiamo seguito sui giornali, l'idea dell'educazione alla legalità sembrava quasi che negli aspetti di contrapposizione fosse in secondo piano, ma non è così veramente, ministro, vero? No, anzi è uno dei punti che noi abbiamo chiaramente espresso anche nel nostro disegno di legge, ma in tutto questo progetto educativo di cui stiamo discutendo col paese da mesi e che abbiamo chiamato in maniera semplice ma credo inclusiva del tema della legalità, della lotta alla corruzione, educazione alla cittadinanza, cioè noi vogliamo che la scuola sia il primo strumento, e lo è di fatto, ma lo sia sempre meglio, di creazione di cittadini maturi, consapevoli e in grado di fare delle scelte. In fondo è questo lo strumento, no? Che ciascuna persona quando affronta la vita reale da adulto può avere o non avere nella propria esperienza. Quale può essere una forma, ministro, che non sia soltanto un fantastico evento legato a una ricorrenza, ricordo dei grandi eroi civili del nostro paese? Quale può essere una maniera per far capire anche agli insegnanti che in realtà, al di là di tutti gli aspetti leciti, sindacali, professionali, occupazionali, l'insegnante non è un mestiere banale e l'educazione alla legalità è un paese in cui, l'ho detto all'inizio della trasmissione, la formula assolutiva, beh, in fondo siamo in Italia, sembra la maniera in cui passi tutto. Quale può essere una risposta? Ma la risposta secondo me sta proprio nella collaborazione stretta che ci deve essere tra gli educatori, no? Gli insegnanti sono lavoratori che educano, quindi sono i lavoratori più speciali secondo me che un paese possa avere, e le istituzioni, noi che rappresentiamo insomma la responsabilità centrale di questa macchina complessa e preziosa, e naturalmente le famiglie che sono insomma l'altra parte, no? l'altra faccia della medaglia, e che possono e devono diventare in una scuola aperta l'alleato più forte. E questo lo si fa da un lato superando un po' anche le barriere disciplinari. In qualche modo io non credo a una educazione alla cittadinanza che sia circoscritta in un'ora, no? Cioè non c'è l'ora di legalità. No, ecco. Non c'è l'ora di legalità e che quindi pervada, ecco, l'attività delle scuole in maniera continuativa e strutturale. Questo come lo si fa? Lo si fa immaginando un modello educativo che sia ispirato a questi principi, e lo si fa anche dando agli insegnanti tutti quegli strumenti per aggiornare, no, le proprie competenze, il proprio ruolo in questo senso più complesso di quello che fosse. Quanti studenti porterete in piazza domani? In piazza ne portiamo 40.000 domani, che non sono, cioè rispetto ai 7.500.000 studenti italiani non sono forse tantissimi, ma sono tanti rispetto. Beh, non vanno a un concerto, non vanno, no, certo, no, vanno a qualcosa di serio. Vanno in piazze italiane dal nord al sud, da Milano a Palermo appunto, e si collegano con questo evento che, come diceva lei, cioè, sicuramente è anche celebrativo, è anche di tributo alla memoria, ma non è solo questo, no? È scegliere questa giornata del 23 di maggio per chiamare l'Italia, per chiamare tutto il paese a questo diritto dovere di recuperare un'etica diffusa, io la definirei così, insomma, la nostra iniziativa. E guardi, negli anni si era fatto questa bella iniziativa della nave della legalità che partiva da Civitavecchia, raggiungeva Palermo con 1.000 studenti. Ora con questa con questo nuovo formato noi riusciamo a coinvolgere diffusamente il mondo della scuola, anche fisicamente, no? Portando i ragazzi nelle piazze a parlare di questi temi, e questo lo trovo veramente anche perché, molto bello. Ministro, il vero tema è che la mafia non è più soltanto nelle regioni classicamente preposte, ma è un fenomeno nazionale, quindi è giusto che l'atteggiamento di attenzione e di rispetto e educazione alla legalità sia diffuso un po' in tutto il paese. Questo non c'è dubbio, poi mi lasci dire, questo è un parere del tutto, una visione insomma personale. La mafia in fondo è un sistema organizzato, no? di gestione di processi criminali che vanno a danno della società e che sono strutture nella società, purtroppo. La corruzione invece è qualcosa che riguarda l'individuo, cioè qualcosa che ogni persona può scegliere di intraprendere come strada nella propria vita oppure no. E allora noi, siccome con la scuola lavoriamo sulla coscienza, sulla formazione, sulla crescita interiore delle persone, abbiamo lo strumento più efficace, abbiamo la responsabilità più grande. Grazie Ministro Giannini. Grazie a voi. Ricordo allora domani 23 maggio 2015 Palermo, Chiametala, gli studenti saranno in piazza per il 23esimo anniversario delle stragi di Capaci, Via D'Amelio, ma non soltanto per questo, per ricordarsi che la legalità deve far parte del loro impegno scolastico, sempre, ogni momento, ogni istante.